Radio 24 Reportage. Lavoro femminile, il modello francese, di Sergio Nava. La crisi ha colpito anche oltre le Alpi. Di occupazione e disoccupazione si è cominciato a parlare negli ultimi mesi, pure in Francia, rendendolo uno dei temi cardine dell'ultima campagna presidenziale. Tra le questioni più importanti figura l'impiego femminile, un settore nel quale la Francia, come vedremo, rappresenta un caso avanzato in Europa. L'esempio più lampante è la legge sulle quote rosa nei consigli di amministrazione, una norma sulla quale si è mossa per tempo anche l'Italia. Ma altri esempi possono essere fatti. Impiego e lavoro al femminile, un binomio possibile? Siamo andati a indagare fino a Parigi. Per cominciare chiariamo meglio la situazione generale dell'impiego oltralpe. La disoccupazione in Francia non ha subito scossoni tra il 2011 e il 2012, rimanendo attestata intorno al 10%. Tra i giovani tocca il 21,8%, tra le donne arriva al 10,3%. Nel cuore di Parigi c'è chi può aiutarci a capire cosa si muove nel mondo dell'impiego francese. Viadeo è un social network professionale made in France che vanta attualmente circa 45 milioni di utilizzatori in tutto il mondo. Oltralpe è estremamente popolare, quasi un must per i professionisti, con 5 milioni e mezzo di iscritti. Olivier Fécherol, direttore generale strategie e sviluppo di Viadeo, ci apre le porte di casa un sabato mattina. Quale miglior osservatorio per analizzare il mondo dell'impiego transalpino nel bel mezzo della crisi? La crisi è dura anche qui. C'è molta disoccupazione pure in Francia. La situazione non è buona, ci dice Olivier Fécherol. Ma paradossalmente ci sono ancora imprese che reclutano e ci sono ancora imprese che non riescono a trovare profili corrispondenti alle posizioni che cercano. Imprese che vengono da noi, a Viadeo, per chiederci aiuto a reperirli. È una situazione abbastanza paradossale. Da un lato una disoccupazione alta, dall'altro posizioni tuttora scoperte. È dunque una crisi che pesa a livello di volume complessivo dei senza lavoro, ma che segnala pure un dislivellamento tra ciò che le imprese cercano e ciò che offre invece il mercato dell'impiego. Tra i settori che cercano lavoratori ci sono le costruzioni, la ristorazione, i lavori pubblici, il settore alberghiero. In questi la domanda è sempre forte. È anche vero, allo stesso tempo, che non sono molto attrattivi né ben pagati. Tuttavia, anche a livello più alto, ci sono settori che reclutano. Professioni intellettuali superiori, manager, commerciali, ingegneri, servizi, nuove tecnologie. C'è ancora molta domanda. Per questo ho la convinzione che esista uno sfasamento tra quanto ci dicono le statistiche ufficiali sulla disoccupazione e quanto osserviamo noi ogni giorno sul terreno. Infine chiedo a Olivier Fécherol, l'occupazione femminile? Dal nostro punto di vista, tutti i social network stanno aiutando le donne a sviluppare il proprio percorso professionale, conciliando vita personale e carriera. È anche vero che le politiche familiari in Francia aiutano la donna a continuare a lavorare anche quando nascono bambini. Qui abbiamo congedi di maternità, congedi di paternità. La famiglia non costituisce certo un ostacolo alla carriera in Francia e le donne stanno cercando lavori sempre più qualificati. Esiste ancora un differenziale salariale, un problema che le imprese stanno però cercando di affrontare. C'était pas trop saisi du sujet et j'ai l'impression que là ça y est. Un anno fa la media europea della presenza femminile all'interno dei consigli di amministrazione delle società era stata fissata al 12% e oggi posso dire che abbiamo raggiunto il 14%. Abbiamo analizzato e sintetizzato con alcuni grandi studi affidati fra gli altri a McKinsey, Ernst & Young, Deutsche Bank che laddove le imprese hanno un equilibrio maggiore fra presenza manageriale maschile e femminile, allora ottengono risultati finanziari migliori. Au milieu de l'entreprise. Quali sono gli esempi cui ispirarsi? Ce sont les pays nordiques. I paesi nordici mostrano complessivamente il risultato migliore, ma vorrei anche soffermarmi sul paese che grazie a scelte politiche ha compiuto un vero e proprio balzo in avanti. La Francia in un anno è passata dal 12 al 22% di donne nei consigli di amministrazione. La Francia si è data una legge sulle quote rosa e poi l'ha applicata con successo. De femmes dans les conseils d'administration. In questa recente intervista a Gigi Donelli, la commissaria europea alla giustizia, diritti fondamentali e cittadinanza Viviane Reding cita esplicitamente il caso della Francia quale esempio da seguire nella promozione del lavoro femminile. La legge Copé-Zimmermann, in vigore dal 27 gennaio 2011, ha obbligato le aziende con oltre 500 dipendenti a riservare il 20% delle posizioni nei consigli di amministrazione alle donne entro il 2014, una percentuale che dovrà salire al 40% nel 2020. Un anno dopo, la Francia ha già ampiamente raggiunto il primo obiettivo. Ha Ann Uthman è a capo della rappresentanza della Commissione europea a Parigi. Sembra che le imprese abbiano già anticipato la legge, chiaramente è stata una misura molto efficace. Però la Commissione sta ancora riflettendo su cosa fare per migliorare la situazione delle donne nell'amministrazione delle grandi imprese. Vogliamo lanciare una consultazione pubblica per decidere se queste quote sarebbero un'idea da portare al livello europeo. Il modello di legge francese può essere un modello anche per l'Europa in qualche modo? Sembra di essere efficace di avere delle quote per le donne. E bisogna dire anche che la Francia adesso, dal mese di marzo, ha una legge per incoraggiare, per fissare in fatto quote anche nella funzione pubblica. E la legge lì impone delle quote per le assunzioni ai posti di quadri. Piccola parentesi, anche l'Italia, come ha notato recentemente proprio la Commissione europea, è diventata un esempio da seguire nel settore delle quote rosa, merito della legge bipartisan Golfo Mosca, che entrerà in vigore ad agosto, obbligando i CDA delle società quotate a riservare almeno un quinto dei posti alle donne, quota che dovrà salire al 33% nel 2015. Una delle due ideatrici della legge, la deputata Alessia Mosca, spiega così la differenza tra la normativa italiana e quella francese. Noi abbiamo fatto un lavoro di analisi comparata rispetto a tutto quello che stava avvenendo o che c'era già in tutta Europa, quindi la legge francese, chiaramente essendo quasi in contemporanea con la nostra, è stato un modello al quale noi ci siamo comunque ispirati, anche se ci sono delle differenze. La più importante è che la nostra è una legge che riguarda le quotate, mentre quella francese ha come parametro il numero di dipendenti o il fatturato. In Francia si è praticamente raddoppiato nel giro di un anno il numero di donne nei consigli di amministrazione. Sì. Qual è stato il segreto? Loro hanno messo immediatamente la obbligatorietà, cosa che da noi invece la nostra legge non è ancora in vigore, quindi noi potremo avere i risultati a partire dall'anno prossimo, perché entrerà effettivamente in vigore a fine luglio, e nel nostro caso noi avremmo un più che raddoppio, perché dal 6% alla prima ondata di rinnovi bisognerà arrivare al 20%. Noi speriamo di poter essere modello per una direttiva europea. Per una volta l'Italia non è il fanalino di coda, ma una best practice da imitare. Ma quanto le aziende francesi stanno sostenendo e appoggiando la legge sulle quote rosa, ci siamo spinti fino al numero 55 di Avenue Bosquet, nel cuore di Parigi, per capirlo. Alla sede del MEDEF, organizzazione equiparabile alla Confindustria italiana, abbiamo incontrato il direttore generale Michel Guilbault. In Francia il tasso di occupazione femminile è relativamente elevato rispetto ad altri paesi, ci spiega Guilbault, ma c'è ancora molto da fare per avere maggiore uguaglianza tra uomini e donne. Anche l'uguaglianza salariale è un tema di dibattito. Più in generale il tema è quello delle carriere femminili nelle imprese. Con i sindacati abbiamo aperto una discussione sulla qualità della vita sul posto di lavoro, sull'uguaglianza uomo-donna in azienda e sulla conciliazione tra vita personale e vita professionale. Per quanto riguarda la legge sulle quote rosa nelle società quotate, il MEDEF da molti anni è estremamente favorevole a questo approccio. Nell'aprile 2010 avevamo già integrato nel codice di governance delle società una raccomandazione affinché venisse riservata una quota più importante alle donne, e questa disposizione l'abbiamo poi ritrovata in un testo legislativo al quale siamo ovviamente favorevoli. Come siete riusciti a raddoppiare in un anno la quota di donne nei CDA? Chiedo a Guilbault. Penso occorra fissare delle regole. Quando ciò avviene, vengono applicate. Troppi pensano che sia inutile scrivere regole, perché poi sarà impossibile rispettarle. Invece noi abbiamo osservato il contrario. Ma cosa significa essere donna e manager in Francia? Soprattutto, quali sono le differenze con l'Italia in termini di conciliazione tra vita familiare e lavoro? In un affollato bar nei pressi dell'Opéra di Parigi, nel cuore della capitale francese, abbiamo incontrato Elisabetta Marigliano, manager responsabile della comunicazione delle risorse umane per Disneyland Parigi. Elisabetta vive da 15 anni in Francia. Credo che comunque sia molto più semplice, uno, trovare già lavoro in Francia, cosa che comunque in Italia è già tanto difficile, due, parlo del mio caso, quindi io sono arrivata con un dottorato, ho iniziato praticamente a lavorare in una boutique del parco Disneyland, mi sono ritrovata un anno dopo al call center e 6 mesi dopo all'ufficio stampa. Quindi per me, secondo me, credo che sia molto più semplice in Francia, perché innanzitutto è il talento della persona che conta, e la personalità, e poi ovviamente quindi le conoscenze linguistiche. La mia azienda mi ha dato questa possibilità. In Italia durante 10 anni ho lavorato in diverse emittenti radiofoniche, televisive, è stato molto molto duro, e quindi la prova è che poi mi sono venuta qui. C'è anche un fattore culturale per cui è più naturale che una donna possa far carriera rispetto all'Italia? Credo che sia soprattutto culturale, perché comunque qui in Francia è ovvio che una donna lavori. Cosa trasporteresti il sistema francese in Italia per quanto riguarda l'occupazione femminile e l'aiuto alle donne? Soprattutto la legge che ti garantisce di ritrovare un posto equivalente o lo stesso posto, questo. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.